Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. Ai ai ai ai ai ai ai, 16 agosto, voi siete lì spaparanzati sulle spiagge ad abbronzarvi, a fare i bagni, i tuffi in piscina, a giocare a racchettoni sulla spiaggia, e noi invece siamo qui negli studi di Radio 24 con Alessandro Milan. Eccoci imperterriti. E insomma, come si sta in radio mentre tutti gli altri stanno divertendo in spiaggia? Benissimo, benissimo. C'è un fresco che gli altri si sognano, tutti al sole, tutti sudati. È vero che magari per arrivare in spiaggia comunque hai un po' di sofferenza, devi fermarti in autogrill a fare delle file chilometriche per implorare una rustichella. Sicuramente sarà così, almeno speriamo le file. Speriamo di no, però insomma era poi... un po' invidia. Non sempre le vacanze sono così belle, no? A me è sempre colpito gli anziani che vanno negli hotel per anziani al mare. No, ma dai, ma che soggiorno triste, marino che per triste. Anziani. Quegli hotel si chiamano tutti Miramare, anche se sono a 30 km dalla spiaggia. È un gran classico, Miramare. Poi è sempre un pavimento, hai notato mai il pavimento di quegli hotel? In linoleum oppure in moquette con dentro gli acari, in overbooking. In una pensione per anziani non sono ancora entrato, però... In bagno c'è sempre la ventola rotta che cigola anche. Poi c'è il sabato sera, il giorno di punta, arriva il maître elegante, vestito di bianco, che fa vedere a tutti una torta Saint-Honoré e poi la rimette via, perché è di resina, dura fino a settembre. E ovviamente il rubinetto gocciola. Il rubinetto gocciola, e queste sono, insomma, magari sono vacanze non particolarmente belle, però l'importante è staccare, giusto? È staccare. Andare via per un po', non pensare ai problemi del vivere quotidiano, autunnale, invernale e primaverile, ma farsi un po' di vacanze, che insomma prima o poi faremo anche noi, farò anch'io, anche tu e tutti quanti quelli che lavorano qui in Radio 24, compreso il nostro tecnico fonico Fabio Cantadori in regia. In regia. Che salutiamo subito. Ovvio, lo salutiamo subito. Però siccome tu sei il nostro giornalista di riferimento, sì, noi vogliamo partire con una notizia. Addirittura di riferimento. Di riferimento. Allora, magari a Ferragosto anche tu, Leonardo, avrai fatto il tuo pranzo solito luculiano di 12 portate. Ma a Ferragosto si fa la grigliata, si fa sempre la grigliata. È un super classico, il barbecue. 12 portate, ecco, con le zucchine che finiscono tutte nella braccia, ma bisogna farlo troppo sottili, i peperoni che nessuno mangia, e comunque ecco, magari avete fatto invece un sano picnic, perché raccontano che quest'anno era di moda, era trendy, era molto fashion fare un bel picnic, magari con le posate colorate, con lunchbox, tutta la moda. Secondo col cestino in vimini, con la tovaglia gonna. Cosa dice presente? Questo articolo dice: costa poco e aiuta a socializzare. E beh, certo, se il picnic sei lì in un parco. Ma l'abbigliamento casual ora lascia posto al glam. Tu fai un picnic glam o casual? E non so com'è il picnic glam. Per esempio, glam. Guarda, c'è la tovaglia, guardala qua, a forma di gonna, cioè che diventa una gonna a quadretti. Bellissima, la voglio fisso. Buona la donna, solo, no, buona voglio la tovaglia, la tovaglia. Ah, vabbè, e poi tovaglia che altro c'è nel picnic glam? C'è il cestino di vimini, ma anche in tela o in formato zaino. Alessandro Milan, come sei preparato? Quasi quasi mi eccito. Con il glam. Con il glam. Glam. Descrivi cos'altro poi c'è. Poi ci sono le posate bio. Le posate bio tutte colorate. E poi che altro? Vedo altre cose qui. Non riesco a leggere perché sono presbite. Ma... E vabbè, c'è il consiglio: vestitevi comodi ma belli. Comodi ma belli. È un consiglio che non ci saremmo mai aspettati. Però. Comodi sì, ma belli. E poi la tovaglia. Ci vuole la tovaglia fantasia. Perché può diventare una mini arte la tovaglia. Mai pensato di fare una mini arte con la tovaglia? Ah, sì, io ci provo tutti i giorni. Il problema dei tovaglioli, anche quando li pieghi, che durano pochissimo, tutti ingegni per piegarli nel migliore dei modi, poi arriva l'ospite subito. Perché non fai il picnic glam? Glam. Sembra un verso che si fa anche dopo aver mangiato. Non di particolare gradimento. Com'era il picnic glam? È onomatopeico. Sì. E così impariamo un'altra figura retorica, perché noi facciamo cultura. L'onomatopea. Si dice onomatopea? Eh sì, certo che si dice. Si dice. No, io chiedo conferma a te sempre, perché tu sei quello acculturato. Un giornalista. E allora, proprio per parlare di cibo, siamo qui con un ospite che Claudio Batta, un comico che proprio di cibo si occupa. Sentiamo cosa ha da dirci. Pronto, Claudio? Ciao, Leo. Hai qualcosa da dirci riguardo al cibo etnico, se non sbaglio, ai ristoranti etnici? Ma sì, perché ormai sono diventati di moda anche quest'estate, secondo me verranno presi d'assalto tanti ristoranti etnici, e quelli più alla moda, vabbè, il primo etnico che abbiamo conosciuto è il cinese, che devo dire che d'estate non va molto, anche perché ci fa mangiare sempre le stesse cose, un po' pesanti. Però ecco, ce ne sono tanti altri, cioè, per esempio il kebabaro, che è ovunque, il kebab, Leo, è un una droga, se entri nel vortice del kebab non ne esci più. Più. Infatti lo danno a striscioline come la cocaina, quindi ci sarà un motivo. E poi ce ne sono tanti altri, e non so, quello più, però il più gettonato, sappiamo benissimo tutti che è il ristorante giapponese. Il ristorante giapponese si mangia usushi, sì. Usushi, come dice il mio amico calabrese, kugatsu usushi. Il sushi è pesce crudo, ma ecco Leo, te fino a 20 anni fa ti saresti mai immaginato di mangiare del pesce crudo? Ma io tuttora non lo mangio perché temo le malattie, temo di prendere grandi infezioni intestinali. E questo lo sappiamo perché tu sei un amante delle malattie, se non ce le hai te le crei, però il problema è veramente mangiare il pesce crudo, che 20 anni fa lo mangiavano solo le foche e adesso lo mangiamo noi, ma perché lo mangiamo? Perché semplicemente è di moda, è diventato di moda. Ora però non bisogna stare attenti a quello che ci fanno mangiare i ristoranti etnici, perché insomma non è la cosa più grave, bisogna stare attenti a quello che ci fanno mangiare le promozioni, quando andiamo a fare la spesa. Il nostro nemico più acerrimo è il 3x2. Di cui molti fanno uso, insomma, si rivolgono al 3x2 perché è comunque un'offerta da utilizzare. Perché è pericoloso? È pericoloso il 3x2 perché tu vai per comprare un etto di crudo al supermercato ed esci con una sdraio da giardino, anche se vivi al quinto piano in 20 metri quadri. Tre sdraio, perché sono in offerta. Sono in offerta, certo. Capito? Poi torni a casa, appoggi la spesa per terra, la guardi e dici no, l'ho fatta io. E non te ne capaciti, però è così, facciamo a volte delle spese eccessive. Io mi diverto per andare al supermercato a scrutare nei carrelli, guardare, perché come diceva Feuerbach, sai chi era Feuerbach, no? Era un noto calciatore della Germania, centravanti della Germania degli anni 70, bravissimo, che diceva noi siamo quello che mangiamo, ma non siamo neanche più quello che mangiamo, siamo quello che compriamo, e se è vero che siamo quello che compriamo, siamo veramente delle schifezze. Io vedo dentro i carrelli delle cose assurde, ci sono per esempio le spese misteriose, 5 kg di cipolle di Tropea e 30 bottiglie di birra. Che cazzo di spesa è questa? Cioè, uno così arriva a casa e fa una gara di rutti, non è che può fare chissà cosa, ecco, davanti ai fornelli con una spesa così. Poi ci sono invece le spese quelle eccessive, quelle che io definisco da guerra atomica, no? La scorta, che te guardi due carrelli completamente, sono due carrelli completamente pieni, e dici no, è scoppiata la guerra mondiale, la terza guerra mondiale, e dici poi pensi no, magari la famiglia proprietaria di questi due carrelli sarà una famiglia numerosa. Arriva la famiglia, in quanti sono? In tre. In due e mezzo. Perché lei è incinta magari? No, perché da uno dei due carrelli sbuca un bimbo gonfio, anche lui senza collo, perché ormai i bambini sono gonfi, e ti guardano male, quindi ti guarda male il bambino perché ha paura che tu gli rubi il gelato che ha in mano. Ma io voglio dare un consiglio alla fine alla gente che va a fare la spesa. Ecco, diamo un consiglio utile. Ecco, non fate spese da guerra atomica, fate spese da morti di fame, quindi spese da single, comprate solo finger food. Andate a casa e abbruttitevi davanti al divano mangiando dei wister, ciucciandoli e mangiandoli con della maionese, e poi vi addormentate, vedrete che spenderete di meno e dimagrirete. Forse, comunque c'è una nota anche amara in queste tue ultime parole, dall'essere da soli davanti al divano. Una nota tristissima. Amarissima, grazie Claudio per essere stati con noi, buona estate a te. Ciao. E abbiamo ascoltato Claudio Batta che ci parlava di temi tipicamente estivi. L'estate è il periodo delle manifestazioni, dei concerti, degli spettacoli. E allora noi siamo qui con l'assessore Birolli di sì. Gottarello. Buongiorno assessore. Gottarello, sì, bellissimo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Questa cittadina Gottarello che ha abolito l'assessorato alla cultura per sostituirlo con un altro assessorato che voi avete definito assessorato al passatempo. Al passatempo, ci siamo riusciti. Ci siete riusciti. Assessore Birolli, come mai questa scelta? Ma è ovvio! Oggi siamo in una società smart dove tutte le cose si fanno velocemente e non si capisce perché con sta cultura ce la dovevamo menare come se fosse una cosa fondamentale. Ecco, ci spieghi in che senso? che per avere sta benedetta cultura te devi far mazzo così. Devi studiare, devi leggere i libri, devi stare le mezz'ore a guardare i quadri senza neanche sapere perché. Che poi sti pittori io non li ho mai capiti, dai. Quelli di una volta facevano tutti la Madonna col bambino. Sai che fantasia, poi. Quelli di adesso fanno tutti i quadri che non si capisce un cazzo. Se può trovare una via di mezzo, dico. Ho capito, dico. Si può trovare anche un modo diverso di esprimersi, Birolli. Quindi a Gottarello che iniziative organizzate? Noi col nostro assessorato al passatempo organizziamo iniziative più smart. Per esempio, col vecchio assessore della cultura che si faceva? Avevamo in programma una mostra sui vecchi programmi della TV in bianco e nero, che è una cosa troppo culturale. Dice troppo culturale, sì. Allora l'avevamo sostituito con una cosa più dinamica. Cioè, ci spieghi. Me sono rivolto a un agente del spettacolo e me sono fatto mandare le quattro professoresse dell'eredità. Gioca qui, si ci ha presente. Carlo Conti, sì. Sì, loro stanno lì, parlano con la gente, parlano con gli uomini. Intanto chi vuole berse una cosa, fare una specie di happy hour... Oh, non sai le prenotazioni, cari amici. Altro che i vecchi programmi della TV in bianco e nero. Che era troppo culturale come iniziativa, sì. Ma certo. E invece adesso la gente della cultura, diciamo la verità, non gliene frega niente. Quello che vuole la gente sono i passatempi. E quindi avete creato l'assessorato al passatempo. Ah, che bello. Grazie, assessore Birolli. Grazie e a voi. Ci risentiamo tra poco. Quiz di Ferragosto. Come si chiama la capitale del Ghana? Accra o Awanagana? Se pensi che sia Accra, manda a Platone una mail con scritto Accra. Se pensi che sia Awanagana, manda a Platone una mail con scritto Awanagana. Partecipa, puoi vincere dei premi. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Dicevamo, siamo proprio nel pieno dell'agosto, nel pieno delle vacanze degli italiani, e invece noi qui siamo in studio al caldo. No, c'era l'aria condizionata, insomma, essere al mare onestamente è un'altra cosa. E allora, soffrendo, è venuto qui a trovarci in studio Diego Parasole. Buongiorno Diego. Buongiorno Leonardo, buongiorno, eccoci qua. Che cosa possiamo dire riguardo a quest'estate? Beh, riguardo a quest'estate mi sto chiedendo se i nostri ascoltatori siano in vacanza o meno, perché è uscito recentemente uno studio di Stefano Cipolli, un ricercatore, che dice che negli anni 60 andavamo in vacanza in media 20 giorni a testa all'anno. Ricordo che alcuni addirittura affittavano l'appartamento per tutta l'estate. Quando finiva la scuola, i bambini andavano con la madre al mare, stavano da metà giugno fino alla fine di agosto in vacanza. Assolutamente. E il padre li andava a trovare ogni tanto, e quindi le ferie erano lunghissime, le classiche ferie d'agosto, insomma. Oggi vanno in vacanza solo 10 giorni e i nostri figli ce li portiamo qui a Radio 24. Esatto. Non so se si sentono le voci di sottofondo, perché le abbiamo chiusi nella stanza di fianco, e questo colpisce. Pare che sia sicuramente un effetto della crisi, e stanno cambiando le cose. Cioè, gli italiani sempre di più pensano al risparmio, sempre più spesso vanno all'estero, anche però appunto stando attenti al prezzo. Io, per dirti, quest'estate farò una settimana di vacanza, abbiamo trovato un viaggio io e mia moglie, un last minute, due persone al prezzo di uno, solo che io faccio l'andata e il ritorno, quindi sarà un po' complicato mettersi d'accordo. L'altra cosa che colpisce è che gli italiani stanno riscoprendo il valore della famiglia grazie alla crisi, perché segnala Stefano Cipolli che molti tendono ad andare, chi ce l'ha nella seconda casa, e molti dagli amici, dai parenti. Ci sono persone che cercano nell'albero genealogico i parenti al sud, pur di andare da qualche parte, famiglie del sud che si vedono arrivare a casa degli sconosciuti, che dicono: siamo i parenti di Torino, ma sì, il nostro trisnonno è venuto giù con Garibaldi. Ed è un periodo veramente drammatico, tanto che si segnala, vorrei segnalarlo a tutti gli ascoltatori, state attenti se andate in hotel, perché con la crisi ho saputo che ci sono hotel che rubano gli asciugamani ai clienti. Ho capito. E la riscoperta, poi quella dei parenti, la riscoperta in positivo anche della suocera, giusto? Assolutamente, ha i suoi valori anche la suocera. E quindi riscopriamo e salutiamo anche tutte le suocere che ci ascoltano. Invece ringraziamo Diego Parasole che è venuto a trovarci qui a Platone. Grazie Diego. Grazie Leonardo, ciao a tutti. Diego Parasole che ci ha introdotto in questi temi, insomma, estivi. Però una delle caratteristiche dell'estate, Alessandro, sono... Le scappatelle. Chissà quante ne hai fatte. Chissà tu quante ne hai fatte. Io guarda, sono un uomo fedelissimo. Anch'io, sei matto. È quello che mi danneggia, perché la donna vuole l'uomo che la tradisce. Ma davvero? Sì, perché dopo si litiga, si torna insieme e quindi si mantiene vivo il rapporto. Quindi tanto vale tradire, tu mi dici? Bisogna tradire, io non sono capace. Bisogna tradire. Io non sono capace, ma bisogna tradire. Cari ascoltatori, Platone chiocciola Radio 24.it. Abbiamo anche l'account Twitter che è chiocciola Platone 24. Esatto, vedi che stai imparando. Ma tu sai che l'amore al massimo dura 3 anni, l'amore è quello vero, forte, che ti fa battere il cuore. Addirittura 3 anni. Al massimo, la media va dai 3 ai 12 mesi, ma il massimo che si può chiedere sono 3 anni. E dopo i 3 anni? Basta, diventa un'altra cosa, a causa di un ormone che si chiama ossitocina. Sì. Quando due persone si innamorano, nei corpi di entrambi viene secreta l'ossitocina, certo, che ha un effetto contemporaneamente inebriante, calmante ed eccitante. Sì, certo, è quella che si dà anche alle donne quando stanno per partorire. Sì, è l'ormone anche dell'amore, solo che dopo 3 anni nei confronti della stessa persona non esce più. Dopo 3 anni davanti a tua moglie l'ossitocina fuoriesce ancora, ma se vicino c'è la sua migliore amica, per esempio. Ecco, per esempio, cioè tu spremi ma ossitocina. L'ossitocina non ce n'è più e dopo l'amore si trasforma. Prima ci si guarda insieme negli occhi. Ma si trasforma in che cosa? Si trasforma, prima ci si guarda negli occhi quando c'è l'ossitocina e si dice ti amo, e dopo invece si guarda verso il futuro, in progetti, in vacanze. Ci andiamo a fare la vacanza insieme, andiamo a fare quest'altro insieme. Compriamo la macchina, ma quell'amore forte che c'è al massimo per i 3 anni, poi non ci sta più. Tutto questo per l'ottimismo. No, non è la verità. È la dura Pensa verità. Che c'è un professore di sociologia tedesco che nel 68, si chiama Niklas Luhmann, questo professore ha tenuto proprio un corso sui sentimenti e sull'amore, dove parla anche, tra le altre cose, del codice sociale dell'amore, che è un codice di aspettative. Vedi? Perché noi siamo una trasmissione di cultura, l'abbiamo sì. detto. Vedi? Dice che... Sto ascoltando... No, è vero. Dice che l'amore non è tanto un sentimento, ma è un codice sociale dove ci si scambia aspettative per il futuro. Quindi quando tu dici ti amo una persona, non stai solo esprimendo un sentimento, stai sottintendendo che sei disposto ad andare a fare la spesa con lei al supermercato. Ecco. Che tu donna sei disposta a sopportare lui quando russa, e fantastico. Tu uomo ad aspettare lei quando si trucca e guardarla poi quando si strucca. Insomma, quando dici ti amo non stai esprimendo un sentimento, ma stai dicendo soffriremo per sempre. Mamma mia, che bella, che lezione di cultura, di filosofia. È così, e tra l'altro, scusa se ti dico, la differenza rispetto agli altri codici sociali è che nell'amore tu metti in gioco te stesso come individuo, perché non è un ruolo che ti protegge, non sei giornalista, scrittore. No, sei tu proprio, sei tu a nudo. Alessandro, Leonardo, Antonio, Sergio. Ed è questa la cosa bella dell'amore, quando c'è questo sentimento tu vedi l'altro senza sovrastrutture, in uno specchio magico che ti fa vedere solo i lati belli dell'altra persona. Mannaggia, mi viene da prenderti la mano, Leonardo. Ed è per questo, andiamo via io e te. È per questo che quando c'è l'amore, se a lei manca un dente, tu uomo innamorato vedi solo il sorriso. Bello, eh? Quando c'è l'amore, se a lui mancano i capelli, lei vede solo gli occhi. Quando c'è l'amore, se lei mette il pigiama con gli orsi, la mattina dopo tu uomo vai a pescare le trote nel torrente. Hai il visto. Tuo sogno erotico diventa l'orso yogi. Però quando finisce l'ossitocina cosa succede? La scappatella. Che se a lei manca un dente tu vedi solo il buco. Se lui è calvo lei vede solo il riflesso. Se la sera lei mette il pigiama con gli orsi, la mattina dopo speri che venga il ranger a portarla via. Il mitico ranger, ma certo. È così. Gli yogi e bubu. E si fanno le scappatelle. Si fanno le scappatelle. Adesso ormai per fare le scappatelle è semplicissimo. Basta avere un telefonino e avere l'app giusta. Ah, l'app. Quindi esatto, tu ce l'avrai sicuramente. Tingle. Tingo? No, non la conosco. Ma non fare finta di non sapere. No, non lo so, non so assolutamente cos'è questo Tingo. Tinder è un'altra. Ah, ce n'è ma dai, più ma fai finta di niente, so, sei io... sempre lì su Tingle e Tinder. Sono le applicazioni per scoprire se vicino a te, proprio nei pressi, c'è qualcuna o qualcuno che vuole avere una relazione sessuale con te. E ho capito, ma come fai a sapere se questo qualcuno o qualcuna ti gradisce? Continui a fare finte. Io l'ho letto e quindi lo so perché l'ho letto. Tu dovresti saperlo perché la consulti quotidianamente. Ma comunque tu metti mi piace a uno, ovviamente se ci sono a fianco attorno a te quelli che hanno Tingle, tu li vedi sul telefonino, dici mi piace a questa qui. E loro vedono anche te, ovviamente. E loro vedono te, e se dicono anche tu mi piaci, cioè esce match. È una cosa avete un po' matchato e poi è un po' inquietante, e poi dite ma sei tu questa che eri a 10 metri e che hai matchato con me, è bellissimo, vorresti voglio... matchare meglio, ma io la voglio questa applicazione, ma ce l'hai già, non ce l'ho, ce l'hai da dove già. Si scarica, ma è una app sui telefonini. non lo so, è un'app come tutte le app. Poi non è detto che matchate poi fate sesso. Comunque . Però ci si comincia. Ma pensa com'era complicato rispetto ai nostri ai nostri anni, dove conoscere una ragazza, chiedere il numero di casa, perché non c'erano i telefonini. Ti rispondeva la nonna. Era difficilissimo che una donna ti desse il numero di casa, perché insomma è difficile ti chiamare a casa, poi lei ti risponde, risponde la nonna, era complicatissimo. Adesso invece con questa applicazione, Tingle e Tinder, via 5 minuti, si tromba che è un piacere. così pare. Così. E allora sentiamo se qualcuno ha qualche cosa da dirci, se c'è qualche ascoltatore che vuole parlarci proprio di tradimenti. Vediamo qualcuno che ci ha chiamato. Buongiorno, chi abbiamo in linea? Buongiorno. Pronto, chi è? Parecchio. Oh mamma, l'ho riconosciuta. Chi è? Io sono Alessandro Mila, ma ho riconosciuto anche lei. E sono Battista da Cavaglione Veronese. Battista, eccolo, come sta? Agente di commercio, sono sempre in giro, no, per tutta Italia a fare cose. Capisci, Mila? Capisco. Come va? Ma va, che ho sentito che parlavate di tradimenti, no? Ho sentito che parla anche tu, che hai diverse volte tradito anche a moglie. No, Battista, a dire la verità ho detto il contrario, comunque. E allora anch'io ho esperienza di queste cose, perché essendo agente di commercio mi capita anche di andare a conoscere donne di vario tipo, perché non posso andare in giro con mia moglie, capisci? Perché mia moglie ha la cellulite anche su comodino. Quando mia moglie va dall'estetista, poi l'estetista deve andare allo psicologo, capisci? Per recuperare. L'unica cosa buona è che si crea un indotto di lavoro, perché poi lo psicologo va al bar a ubriacarsi e così via. Si crea un indotto di lavoro. Pensa che mia moglie l'ho conosciuta tanti anni fa in una discoteca, era lì in un angolo da sola, mi sono avvicinato e abbiamo cominciato a parlare. Alla fine ho capito che era l'angolo delle occasioni, capisci, Mina? Vabbè, capisco, sono drammi con cui fare fronte. Una volta quando andavo a letto con mia moglie, alla fine che devo, ti è piaciuto? Adesso quando vado a letto con mia moglie dico, come ho potuto? Capisci, Mina? È l'evoluzione dell'amore, Battista, su. E allora anche io mi accompagno, quando non trovo nei miei viaggi una accompagnatrice me la devo anche pagare, no? Vado in giro con la Samantha. Conosci la Samantha? No. La tigre da Cavaglione Veronese. La tigre? È la mia amante, che si mantiene tutti i giorni in forma, va a fare quei massaggi, sembra uscito da un frantoio. E poi per tenersi in forma la Samantha, la tigre da Cavaglione Veronese, tutti i giorni va a fare yogi nel parco. Yogi? Quando Samantha va a fare yogi nel parco, i pensionati per guardare lei quasi smettono di guardare il lavoro in corso. Infatti a Samantha è stata anche contattata dall'INPS, ha detto vieni a correre nei parchi di tutta Italia che risparmiamo sulle pensioni. Hai capito, Mina? Ho capito che beh, insomma, io voglio ribadire voglio dire che anche un tradimento qualche volta aiuta la coppia, così quando torni dice in fondo anche mia moglie dai non è poi così disastrosa e sei contento di guardare insieme verso il futuro. Va bene, Mina? Bene, benissimo. Saluto, Battista, buon Ferragosto. Grazie, anche se è già passato, a tutti voi. Grazie anche a lei, buonasera, buongiorno, buonanotte. Hai visto, Ale, che tradimenti sono comunque insomma sempre presenti nella vita degli italiani, abbiamo sentito anche da Battista. Sì. E noi invece non tradiamo il nostro inviato Ratko, che ogni settimana mandiamo nei luoghi tipici dell'estate per verificare, per vedere come procede l'estate degli italiani. Ratko, ci sei? Sì, buongiorno Manela. Anzi, non è proprio uno buono giorno, perché mi trovo pronto a soccorso. Che cosa è successo, Ratko? Ma pranzo Ferragosto mi ha ucciso. Ma è entrato più cibo in mio corpo di quello che ci sta in un camion di aiuti umanitari. Ma io non credevo che voi italiani mangiavate così tanto. Adesso ho capito chi è responsabile del vostro debito pubblico. Sono pranzi di Ferragosto. Mamma mia, non finiva più antipasti gogò, tris di primi, full di secondi, melanzane parmigiana a cali o latte e vino, mamma mia. Ho bevuto più vino a Ferragosto io che un enologo in tutta sua carriera. Perché? Non essendo italiano deve imparare a trattenersi a Ferragosto, Ratko. Ma come potevo, Manera? Famiglia dei calabresi che mi ha invitato. Ogni volta che io dicevo basta, grazie, mi rispondeva ma così ci offendi, così ci offendi. E sai, per noi rom, offendere chi ti invita a pranzo, chi ti ha offerto il suo cibo, ma è un peccato mortale, è impensabile. Io piuttosto taglio una mano che offendere. L'unica cosa che posso fare è quella di aspettare il vigilia di Natale e invitare loro da me. E credimi, faccio pentire di essere venuti a mondo. In che senso, Ratko? Perché apriamo con aperitivo di Slivovica a 75 gradi, una che cosa noi apriamo per smacchiare vestiti. Sì. Un bello quarto di quello. Poi antipasti, involtini di porco, involtati su porco, fritti con olio esausto di porco. E poi abbiamo primo piatto, nel senso che te mangi primo piatto di ceramica, tutto, vaffanculo, e non lasci neanche briciole. E secondo invece cervo a infermiera. Cioè cosa sarebbe? Cervo infermiera, è con zoccoli e tutto, come infermiera, ed è contorno erba de campo minato, che te vai a raccogliere tu solo. E naturalmente se lasci qualcosa in piatto, Ratko si offende. E l'ultima volta che mi sono offeso io è scoppiata guerra dei Balcani. Vabbè, comunque adesso come sta, Ratko? Male, male, mi sento a pezzi, Manera. Ma insomma, le hanno dato qualche cosa per stare meglio? Sì, mi hanno dato un puzzle da 12.500 pezzi. Me l'ho detto, guarda, se finisce prima che noi chiamiamo per visita, in sala grande danno corazzata a Potione. Ho capito, perché l'attesa nel pronto soccorso italiano è un po' lunga, diciamo, deve abituarsi. Ma se per pagamento dei ticket accettano ancora lire. Va bene, Ratko. La ringraziamo e ci sentiamo più tardi, Ratko. Insomma, il pronto soccorso è anche quello uno dei protagonisti dell'estate. Anche quello, i tempi di attesa al pronto soccorso della sanità sono una delle cose da migliorare in Italia. Sì, anche i tempi di attesa di altre cose, tipo l'attesa per fare le riforme. Ma quanto sei perspicace! Me l'hai servito. Hai capito lì che stavo andando lì in quella direzione? Sembrava un assist che neanche Kakà dei tempi migliori. Perché? Perché insomma Renzi, quando si è insediato con la famosa conferenza stampa con le diapositive, te la ricordi? Ha fatto tante promesse, ha fatto una dichiarazione, la vogliamo risentire, torniamo di qualche mese perché indietro, perché ha capito che gli italiani insomma vivono le cose al momento, poi magari dopo un po' di anni, dopo un po' di mesi non ci si ricorda più quello che era stato promesso, e tu dicevi verifichiamo. Sentite Renzi, senti Renzi cosa aveva detto appena poco insediato. Entro il mese di febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali e elettorali da portare all'attenzione del Parlamento, e da subito dopo, nei mesi successivi, immediatamente nel mese di marzo la questione del lavoro, nel mese di aprile la riforma della pubblica amministrazione, nel mese di maggio quella del fisco. L'importante è promettere. Ma siamo già ad agosto, insomma, il lavoro è slittato, il fisco, Hai detto che Renzi è diventato giustizia. Campione di slittino. Sì, vabbè, ma battuta, si scherza. Però questa è una lezione che Renzi ha imparato dai politici precedenti. Promettere. Poi l'importante è che... Ma poi magari ce la mette tutta, ma sai come il sistema. È difficile, in Italia è complicatissimo. La burocrazia. E lui non era l'unico, insomma, non è l'unico che promette. A suo tempo promettevano anche i politici dell'altra generazione, quelli del carrello. Il carrello dei bolliti. Che bel pranzo che ci siamo scofanate. Rosa, è rimasta qualche fettina di squalo in garpione? Voi uomini pensate sempre a mangiare, Manga la patata, Rosa. Rosa, Hakuna Matata, anche se sei a dieta, per la convenzione di Ginevra una fetta di mortadella la puoi mangiare comunque, eh? La convenzione di chi? Ginevra, la mia salumiera di fiducia. Allora, a parte che secondo me questa Ginevra ci fa la cresta sulla spesa, a parte questo, e comunque anche se non mangerai, Rosa, la quota per il pranzo, sappi che la dovrai versare comunque, e anche il coperto. Zitti, c'è il badante di Ferragosto. È arrivato lo zio con i cioccolatini. Forza ragazze, e adesso passerella per le passerine. Questo cioccolatino, nipote di Marie Le Pen, chi lo vuole? E questa la prendo io, ma le conosce le parole di giovinezza? Sì, e questo bombone esplosivo che passa adesso è la nipote di Netanyahu. A chi la diamo? Si mistira bene la pasta all'uovo, la prendo io. Bene, e adesso questo cioccolatino tedesco un po' grosso di culo come la zia, a chi lo diamo? Se ci fanno uno sconto sul debito pubblico, lo prendo io. Bene, e adesso tutti insieme col trenino. Sì, come quando c'era lui, che i treni arrivavano in orario. Sul trenino posso fare l'ultimo vagone? Non vorrei che il badante mi facesse lo stesso scherzetto del 2008. Questo era Danilo Vizzini col suo carrello dei bolliti, e noi invece ci ritroviamo tra poco con Ratko. Quiz di Ferragosto. Chi fu il successore di Costantino? Costanzo o Daniele Interrante? Se pensi che sia Costanzo, manda a Platone una mail con scritto Costanzo. Se pensi che sia Daniele Interrante, manda a Platone una mail con scritto Daniele Interrante. Partecipa, puoi vincere dei premi. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Sai che io ho un po' nostalgia di questi politici del carrello dei bolliti. Davvero? Ma quale ti fa più nostalgia? Tremonti? No. Ma sai, erano molto riconoscibili, no? Con le loro voci. Io poi per anni, insomma, io penso che ho fatto gli scioperi della fame. Sì? Ho fatto gli scioperi della fame al tempi in cui il Partito Radicale aveva un suo perché, insomma, in cui aveva anche... Vabbè, ma Nera quindi è dei radicali, finalmente l'abbiamo svelato, il suo cuore politico. No, non ho mai avuto problemi a dirlo, ho fatto anche due scioperi della fame ai tempi, uno contro la fame nel mondo. Ma è il primo che feci, ho fatto uno sciopero della fame contro la fame del mondo. Sono riuscito a reggere finché mia madre ha preparato i salti in bocca alla romana. L'altro su cosa, le canne? No, l'altro... è stato quando c'è stata la guerra nell'ex Jugoslavia. Ah, ok. E anche in quel caso sai che i radicali facevano sempre scioperi della fame. E quindi nulla, ho un po' la nostalgia invece dei politici così riconoscibili, perché su quelli si poteva anche ironizzare, giocare un po' di più. Adesso ci vorrà tempo per conoscere quelli nuovi. Tipo se ti chiedessi 5 di Forza Italia, tu li sai. Vabbè, 5 di Forza Italia... La Ronzulli è ancora Forza Italia? Era eurodeputata, ma non lo è più, quindi non vale. Poi? E Nicole Minetti, che non è più. Ma no, non è più, era consigliere regionale, non è più. Aspetta, che beve. Tremonti. Non è più di Forza Italia. Sei spacciato. Alfano del nuovo centrodestra. Sei spacciato. Verdini, Dennis Verdini. Dennis Verdini, sì. Lui mi Dennis Verdini. Uno, ne ha azzeccato uno. Dimmene tu al volo 5. Fitto. Fitto. E poi Bianconi, simpatico, lo chiamo spesso. Micaela Biancofiore. La Biancofiore, poi la pitonessa. La pitonessa, la Santa Anche. Ma noi prima abbiamo lasciato Ratko al pronto soccorso con problemi gastrointestinali. Vediamo come va. Ratko, come va? Benissimo, Manera, ma non ho più niente del ricordo del pranzo di Ferragosto. Mi hanno fatto tutto, esami di sangue, urine, latte, lavanda gastrica. Ora sto come un topo nel formaggio. E tutto in un quarto d'ora. Ma allora non è vero che la sanità italiana non funziona bene, che le attese sono infinite, sono tutti luoghi comuni, Ratko. Ma certo che non è vero, tutte storie inventate da giornalisti. Se tu prendi in ostaggio primario del pronto soccorso, lo fanno tutto in 5 minuti, sì. E non paghi neanche te. Il problema è che è un reato, Ratko. Ma perché? Fare aspettare ore e ore gente non è reato. È arrivata una ragazza per fare test di gravidanza, è uscita che aveva due gemelli, dai! Senta, ma lo stagio di primario come va? Ma benissimo, Manera, siamo diventati amici. Io ho capito che lui aveva bisogno di una mano per smaltire il traffico del pronto soccorso, e allora mi sono messo a sportello di prima accoglienza. Sì, ma non può, bisogna essere personale qualificato, non può farlo, Ratko. Ah, sì, che si può fare, dai, scusa un momento che ho lavoro che mi chiama. Prego, signora, che problema ha? Tagliato un dito. Faccio vedere. Ai, ai, ai, brutto taglio, completamente perso. Senti, che lavoro fa lei, signora? Sono una professoressa di storia. Beh, se era matematica era peggio perché doveva contare con diti. Storia, che cazzo serve 10 diti? Niente, ma dai, ciuccia ferita che va bene. Avanti, prossimo. Dai, dai. Oddio, mio figlio ha ingoiato le chiavi della macchina. Calmo, ci pensa, dottor Om. Calmo, stia calmo. Risolviamo subito tutto. Allora, prima di tutto tieni questo piede del porco che ci apri macchina. E poi, ecco, dai, questa purga per bambino, vedrai che domani recuperi le tue chiavi. Grazie, amico. Ma che bello, Manera, mi piace. Questo nuovo lavoro è bellissimo. Adesso ti dirò, ho bisogno di una pausa, perché sai come si dice, ieri a pranzo di Ferragosto, oggi lavanda gastrica, e adesso non ci vedo più dalla fame. Vado a fare spuntino. Ciao, Manera. Va bene, ciao, ciao Ratko, grazie, Ratko. Hai visto, Ale, si va al pronto soccorso d'estate. Sono le cose tipiche che succedono d'estate, no? Si ricorre al pronto soccorso perché gli uomini fanno più sport che nel resto dell'anno. Eh sì, poi magari il barbecue ti bruci un attimo, ti scotti un dito. Io tante cose le ho rotte d'estate, ho rotto anche la milza d'estate, sai. Mamma mia, ragazzi, no. Giocando a tennis, sì? Sono riuscito a rompermi la milza. Come hai fatto? Una pallinata? Il mio compagno di doppio. Ah, da dietro? Mi ha dato una rete? No. No, siamo andati tutti e due sulla stessa pallina. La pallina è passata, ma lui, aprendo la racchetta, mi ha dato una grande gomitata nella milza e me l'ha rotto. Ho avuto la rottura post-traumatica della milza. Accidenti, che bel doppio, che bel affiatamento. È un bel doppio, ogni tanto le cose succedono, proprio d'estate. Però ci sono anche cose gradevoli, per esempio, d'estate, no? Sì, ci sono cose gradevoli, per esempio che cosa? I peccati. Ma perché gradevoli? Non ho capito. Allora, ma se non si pecca un po' nella vita, che si deve fare? L'unica cosa che ci resta. Ecco, scappatelle sì, scappatelle no. Tu sei pronto a perdonare una scappatella? Dipende dalla relazione che ho con quella donna. Se è una donna con cui una relazione fissa, sono innamorato, magari non gliela perdono. Se è una così che frequento così per divertimento, vabbè, che non mi capita mai, una peraltro una risposta democristiana. Comunque non mi capita mai di frequentare qualcuno per divertimento. No, ma come, ci vuole l'app, quella Tinder, quella di Tinder. Concerto. No, allora, comunque, la tendenza nuova parve, io queste cose non le capisco, cioè ci sono le tendenze nuove. La tendenza nuova è quella del perdono, vince il perdono. Sai che l'ultima che di recente ha perdonato il marito è stata Alessandra Mussolini. E quello è stato un bel perdono non facile. Sì, perché il marito è rimasto invischiato in questa storia di baby escort. Sì, ai Parioli a Roma. Pensa che io credevo che lei non, assolutamente l'avrebbe lasciato subito. E invece ma infatti sembrava così all'inizio. E poi invece si è fatta immortalare sulla spiaggia con un bacio sulla bocca, riconciliante, riappacificante. E io in questo rivaluto la Mussolini, devo dire. Sì. Ma sì, perché vuol dire che tutto sommato ci tiene la famiglia, al di là dei giudizi che si possono dare sul marito. Però vuol dire che ha cercato di tenere insieme la famiglia. Quindi tu sei con Hillary Clinton, per esempio? Sì, basta che... Sì, sono sempre anche dalla parte di Hillary Clinton, insomma, perché quando c'è una famiglia, tutto sommato, se sono cose, peccati perdonabili, meglio perdonarli. Vabbè, insomma, questa è la morale di soprattutto Manella. Se a tradire è l'uomo. mi sembra giusto, mi sembra una posizione molto corretta. Quindi la tendenza è quella di perdonare le scappatelle, soprattutto le scappatelle estive, soprattutto se coinvolgono uomini. Sai che anche a me è capitato di essere tradito. Chi non è capitato? È capitato, io l'ho capito, perché quando facevo l'amore lei mi chiamava Paolo, io mi chiamo Leonardo, ma lei dice che era un diminutivo. Allora ho detto, come puoi stare con me contemporaneamente pensare a un altro uomo? E lei mi ha detto, è la globalizzazione. Sono i frutti della globalizzazione. E ti dirò anche che quando finisce una storia d'amore appena finita, l'uomo si illude e pensa di poter stare con centinaia di altre donne la prima settimana. La seconda settimana capisce la situazione, al massimo pensi di poter stare con decine di altre donne. La terza settimana pensa e basta. Pensa che è difficile, perché la donna vuole un uomo tenero sul divano ma duro sul letto. Poi quando sei sul divano letto dici, ma che si fa? Che si fa? Leonardo Manera! Sì, è così. L'importante è perdonare. Perché è una trasmissione di cultura. No, di cultura, di cultura. Quindi... ma l'importante è perdonare. E in tema di perdono, noi abbiamo qui proprio un prete che insomma dovrebbe essere esperto in merito a tutto questo. Abbiamo un prete che spesso ci viene a trovare, è un prete di provincia, però vogliamo capire se anche lui ha delle condivide la nuova linea di Papa Francesco, Ale, se non sbaglio. Sì, esatto. Don Danilo, buongiorno. Buongiorno, lo faccio sempre con grande gioia di essere qua con voi a Radio 24 dei Platone. Benissimo. Anche noi della Chiesa siamo sempre più tolleranti, lo stiamo diventando poco a poco, crescendo, e finalmente d'estate c'è il sole, se va al mare siamo tutti un po' spensierati, e allora bisogna anche tollerare quei piccoli peccati che si possono fare d'estate. Per esempio, bisogna tollerare qualche piccolo peccato di gola. Questo per... E poi? E poi altri peccati. Immagino. Poi basta, perché la tolleranza c'è un limite. Va bene qualche piccolo peccato di gola, ma poi fermiamoci lì. Anzi, quelli che si lasciano prendere da questa scusa dell'estate per fare più peccati vanno puniti severamente. Quelli che tradiscono la moglie o le mogli che tradiscono il marito vanno presi e marchiati in modo che tutti possano vederli. No, ma come marchiati? Quelli che approfittano dell'estate per non andare a messa e non fare la comunione vanno presi e marchiati in modo che tutti possano vederli. Marchiati. Quelli che approfittano dell'estate per accoppiarsi a destra e a sinistra usando profilattico senza finalità della procreazione vanno presi e marchiati in modo che tutti possano vederli. Vanno marchiati loro e vanno bucati i profilattici. Questo... No, guarda, Don Danilo, lei non mi sembra molto tollerante. Ma oggi la Chiesa è già molto più tollerante di una volta, ma forse lei non si ricorda. Una volta utilizzavano i roghi, torture di ogni tipo, e le cose andavano meglio. Ma come meglio? C'erano meno peccatori. Ho capito, sì. Oggi però stiamo seguendo la linea del Papa Francesco, che è per una maggiore tolleranza, e anche noi, base della Chiesa, ci stiamo adeguando, anche se in fondo la sacrestia Io tengo sempre pronto un bel covone di paglia preparato ai tempi del Papa Ratzinger nel caso si decidesse di tornare alle buone, vecchie, sane abitudini. Come buone, vecchie. Questo. Guardi, don Danilo, la ringraziamo. E ricordate, caro Milan, nella vita ci vuole tolleranza. Sì, tolleranza, che lei mi sembra, no? Grazie, non devi. Nella vita ci vuole tolleranza, ci vuole tolleranza. E vabbè, questo era il commento di Don Danilo, ospite pressoché fisso qui da noi che a Platone. Gioia. Prima della pubblicità, e vogliamo invece lanciare il nostro gioco che facciamo normalmente, quello della parola sbagliata. Cioè, c'è il nostro Danilo Vizzini che canta. Salve a tutti. Che è una voce completamente diversa da Don Danilo, devi dire. Devo dire. Che canta un pezzetto di canzone e voi dovete indovinare in questo pezzetto di canzone qual è la parola sbagliata e poi mandare la risposta dove, Ale? Platone@radio24.it. Platone@radio24.it. Volevo vedere se eri pronto. Sì. Oppure anche l'account Twitter. Potete anche colloquiare, parlare, dialogare con noi su Twitter. Certo, a Platone24. @Platone24. Platone24. Allora, cantata spensierata. Sì. Cantata spensierata. Lei era un piccolo grande amore, è solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. E mi manca da morire quel suo piccolo patatone, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. E noi, mentre riflettete sulla parola sbagliata, andiamo un momento in pausa. Quiz di Ferragosto. Chi passò le Alpi con gli elefanti? Annibale o Moira Orfei? Se pensi che sia Annibale, manda a Platone una mail con scritto Annibale. Se pensi che sia Moira Orfei, manda a Platone una mail con scritto Moira Orfei. Partecipa, puoi vincere dei premi. Platone, la caverna dell'informazione. 16 agosto 2014, allora noi vi immaginiamo lì sulle spiagge, tranquilli, rilassati, forse qualcuno sta anche già tornando. Qualcuno sta già tornando, qualcuno magari ha indovinato la canzone, no? La parola della canzone, sta scrivendo già la mail. Ma sì, è la canzone che ci ha cantato prima il nostro Danilo Vizzini, che adesso non risentiamo, ma che insomma sappiamo che molti di voi partecipano volentieri a questo gioco perché ci sono anche dei premi previsti. Appunto, Leonardo, cosa vincono? Non lo so, dobbiamo ancora... Dobbiamo ancora decidere, però manderemo dei premi. Un quiz senza premi è come una legge senza sanzione. Mi manca una parte fondamentale, ma noi vogliamo che voi ci rispondiate solo per il gusto di rispondere, di giocare un po' con noi, di stare con noi in questo Ferragosto, e abbiamo anche piacere di parlare con qualcuno di voi. Per esempio, adesso abbiamo un ascoltatore che in realtà riguarda la sua presenza una notizia di cronaca molto cruda che si è verificata in una situazione di vero degrado sociale. È successo che in un paesino di cui non faremo il nome, una coppia con precedenti penali, lui denunciato più volte per usura, lei nota squillo della zona, ecco, sono stati picchiati selvaggiamente dai figli per pochi spiccioli, per pochi soldi. E abbiamo qui al telefono con noi il vicino di casa di questa coppia che ci dirà sicuramente qualcosa di interessante. Buongiorno. Buongiorno, è una vergogna, è una vergogna. Due persone così per bene picchiate in quella maniera, signor Manera, come si chiama? Manera. Lato, sentivo certe mazzate, tanto che pensavo stessero facendo dei lavori in corso. È una vergogna. Anche se non capivo perché dopo ogni colpo si sentivano delle grida. È una vergogna, ha capito? Ma lo sa chi sono? Io lo so chi sono. Sono tutti questi responsabili di questo picchiaggio. Lo sappiamo che sono. Sono tutti questi extracomunitari romeni dell'est Europa che vengono nel nostro paese a seminare il terrore. È una vergogna, porco Giuda. Veramente sono stati i figli a picchiarli? I figli sono stati? Assicuro. E del resto, se non manera, quando i figli si comportano come gli extracomunitari romeni dell'est, non ci si può fare niente. È una vergogna. Questa è gente che vanno eliminati fisicamente, vanno tolti dall'Italia. E glielo dico io, perché ne ho sposata una di extracomunitari romeni dell'est, puttanazza la miseria. Ma dico io, picchiare due persone così per bene. Non proprio così per bene, lui faceva lo strozzino, l'usuraio. Lo strozzino? Sì. E vero, ma lo faceva per bene, porco Giuda. Io lo vedevo alzarsi alle 5 del mattino, anche con la nebbia, per fare lo stoccino. E le posso dire una cosa, signor Manera, Manera, come si chiama? Io preferisco uno che si sveglia all'alba per fare lo stoccino che uno che si alza dal letto a mezzogiorno per non fare un cazzo come mio figlio, suo figlio è rumena, ha capito? Ma io non lo so, due brave persone così, picchiato in quella maniera. Lei è una signora educata, sì. Una signora così per bene, generosa. Generosa perché faceva la squilla in questo senso, forse. Infatti la dava a tutti, Ma Manera, dico io, ma come si fa due persone picchiate così per bene? Dai figli. Manera, dico, due figli, due ragazzi a modo, è bene, due figli che vorrebbero tutti, io per primo. Insomma, hanno piccato i genitori per 20 euro in realtà, quindi non... Appunto, li vorrei io per riempire di mazzate, signor Manera. Ma dico io, ma si piccano due genitori così? Ma neanche fossero rumeni extracomunitari dell'Esmo, orco Giuda. E adesso lo devo salutare, signor Manera, che mi è venuto un dolore improvviso. Io non so perché, ma quando mi va il sangue alla destra mi fanno male le emorroidi. La saluto. Un motivo ci sarà. Insomma, hai visto che pronuncia perfetta siciliana. Perfetta, proprio sicula vera. Assomigliava un po' a Ratko. Un pochino, sì, vagamente. Se stavi ad ascoltare bene, poi... Bene, proprio ti veniva un po' questo adesso dubbio. Adesso che ci penso, ecco infatti cosa mi hai fatto venire. Sembrava un po' Ratko, non sappiamo se fosse veramente lui. Insomma, sappiamo che Ratko si sta un po' rilassando in questo momento. Dopo i problemi che ha avuto al pronto soccorso, ci ha detto che è andato a vedere un po' di televisione. Esatto. E allora noi, sai che abbiamo un ospite fisso. Quando si parla di televisione dobbiamo parlare di una sola persona che ogni settimana ci viene qui a trovare per raccontare delle cose importanti. Perché noi siamo una trasmissione anche culturale. Ma è chiaro. E vogliamo occuparci anche della storia, della critica televisiva, capire dove inquadrare la televisione. E quindi ospitiamo una persona che è il massimo che si possa avere in Italia su questo tema. Il professor Limoncelli, che saluto con grande piacere. Professore, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno, come sta? Sono qui presente anche il 16 agosto, visto che non manco mai, sono un stacanovista della critica. La ringraziamo moltissimo per questo. Lo faccio assolutamente controvoglia, devo dire. Avrei preferito partecipare a qualche altra trasmissione, ma nessuno ha voluto approfittare di un personaggio della mia cultura, ma perché come? Viviamo in un paese di ignoranti, quindi partecipo controvoglia alla vostra, che è ugualmente una trasmissione di ignoranza totale, completa ed assoluta, ma viene elevata dalla mia presenza. Infatti, meno male che c'è lei a questo punto, storico e critico della televisione. Allora, professore, cosa possiamo dire della televisione estiva, la TV estiva? Ma possiamo dire che la televisione estiva si sostanzia attraverso un bisogno emergente, ma non classificante, di categorie sociologiche, non implementate dalla stagione, ma anzi decresciute dalla apocatastasi estiva, che si manifesta in modo evidente ma non totalizzante nel quadro di un esodo paramentale caratterizzato da una disattenzione ermeneutica che ricresce regolarmente con l'incremento di quella che io bonariamente definirei una televisione da infradito, ecco. Visto che analisi ho fatto. Certo, infradito capisco benissimo, però tutto il resto in pratica non ho capito benissimo cosa voglia dire, se devo essere ma non vuol dire assolutamente nulla. Ecco. Ho detto un cumulo, una montagna di stronzati, hic et nunc, stronzate senza nessun significato, ma mi compiaccio di dirle. Sono felice che voi mi ascoltiate, godo come se stessi leggendo la Bibbia, perché io sono il professor Limoncelli, storico e critico di altissimo livello, apocatastasi, ermeneutica, superfetazione. Apocatastasi è tornata, apocatastasi, mi piace dirlo, anche se lei ovviamente non sa a cosa mi riferisco. Assolutamente non, ma assolutamente. Un personaggio di cultura assoluta. Assolutamente non so, assolutamente nulla. Televisivo, sì. Vabbè. E senta, però, come sa, ogni settimana siamo qui a chiamarla, a chiederle cosa vale la pena, perché cosa vale la pena di pagare il canone e per cosa non vale la pena pagarlo. Ma naturalmente, allora, durante l'anno non vale la pena di pagare il canone per le pesantissime trasmissioni di Piero Angela, che vogliono spiegarci come funziona il mondo. Ma a chi interessa? Come? Chi se ne frega dalla vita dei leoni nel parto dei siringhieti? Quelle trasmissioni possono rendersi interessanti solo se mostrano per il filo e per il segno come si accoppiano tutti i tipi di animali. Anzi, se io fossi il curatore di Super Quark, farei un'intera puntata dedicata all'accoppiamento che si verifica tra uomo e donna, mostrata nei minimi particolari, senza nessuna censura. Ma dai, non le sembra troppo, professore? Ma naturalmente lei. No. Lei sa che molti animali, ad esempio, sono dotati di un ossicino che si chiama os penis, che sostiene l'erezione. Quindi per questi animali tutto viene più facile. È un muscolo che fa drizzare l'ossicino e il gioco è fatto. Tutto è facile. L'uomo invece no. L'uomo ce l'ha disossato. Che immagine repellente. Ma è per questo motivo che accoppiarsi con una donna è molto più complicato. E un documentario di Super Quark che mostrasse per filo e per segno legno, come si fa, renderebbe tutto più facile anche agli uomini. Sì, scusi, disossato, proprio è stata un'immagine che ho fatto fatica a reggere. Ma comunque questa sarebbe, mi lasci dire, mi dà la televisione veramente educativa. Vera cultura, vabbè. E dove sta invece il canone? Supercar Quark? No. No. Ma invece dove sta il canone? Invece, naturalmente cosa? No. Allora, il canone sta, vale la pena di pagare il canone, sì, per le trasmissioni di una piccola rete del digitale terrestre, Tele Eros 2000. Una televisione che ogni sera rappresenta nei minimi particolari tutti i sogni erotici maschili. Per esempio, ritrovarsi da solo in mezzo a tutte le partecipanti di Miss Maglietta Bagnata con in mano un mini pimer. Oppure cospargere completamente di panna montata qualche smanzappata e poi accoppiarsi con lei in un barattolo enorme di cioccolata. Oppure ancora accoppiarsi selvaggiamente con qualche smanzappata su una spiaggia alle 6:30 di mattina mentre cominciano ad arrivare sulla spiaggia i primi pensionati. Ah, e questa sarebbe la grande TV educativa del professor. Sì. Così almeno i pensionati capiscono che da guardare c'è qualcosa di più interessante dei lavori in corso. Possono guardare le smanzappate che si accoppiano. Che si accoppiano, vabbè. Professore, la ringraziamo molto, è il 16 agosto, ma lei è stato con noi, come possiamo ringraziarla? Ma guardi, io mi lascio perché devo andare subito a comprare un mini pimer per la prossima selezione di Miss Maglietta Bagnata. Se vuole invito anche lei. Vabbè, io magari se non ho impegni verrò. Arrivederci, grazie, buon agosto e post agosto a tutti. Grazie. Grazie a lei, professor Limoncelli. E allora anche questa puntata è giunta al termine, auguriamo a tutti delle buone vacanze per quelli che ancora non fossero partiti e noi vi diamo appuntamento dopo aver ringraziato Fabio Cantadori in regia e Luca Clobas e Danilo Vizzini, noi li ringraziamo, Ale, giusto? Certo, ovviamente. E vi diamo appuntamento dopo avervi ricordato anche di iscriverci a... Platone chiocciola radio24.it. Ma come dico chiocciola e non dici niente, ma Platone è radio24.it. Oppure di seguirci su Twitter con chiocciola Platone24 e vi diamo appuntamento a sabato prossimo puntuali alle 9 più o meno. Ciao, grazie.